Ecco, va bene, sta andando benissimo. Ma quando c'era Roberto stava andando male, adesso ho dato un colpo e si è ripreso. A volte le buone maniere servono, a volte risolvo così, No, ma sta andando bene, non trovo nessun tipo di... La modulazione è forte, rimane un po' sulle medio alte. È tranquillo, cioè il funzionamento, nel suo funzionamento sta andando bene. Speriamo che continui così. Ma sì, te l'ho detto, portalo un po' su a casa e fallo girare a casa, perché magari in macchina prende più umidità, mi segui, e ti causa quelle cose lì, anche se non lo vediamo, cioè in macchina è quasi all'aperto. Mi vedi, adesso lo sta facendo, guarda, io me ne accorgo. Sì, adesso te lo sto facendo. Ho paura che la membrana è partita. No, ma non c'entra niente, secondo me, già la membrana. Secondo me, ti ho detto che è la svita, quello lì. E sta facendo falsi contatti della svita. È proprio il PPT, è proprio la portante che ti viene a mancare. Adesso guardo se ne ho un altro di PTT, lo cambio, cosa devo fare? E lo metto nuovo, tanto microfoni smontati ne ho a voglia, a bizzeffa. Sì, infatti, secondo me conviene cambiare quella roba lì e va. Perché quando va in trasmissione è un microfono perfetto, è abbastanza perfetto. Prova, guarda invece, non ha dato qualche saldatura a freddo già nel contatto della portante. Gavi, è un problema guardare, perché c'è i fili che sono andati all'interno. Ho capito. Quella roba comunque di qualche saldatura fredda, qualcosa che sta facendo contatto e non. Adesso provo da sotto, vediamo. Così dovrebbe andare bene, guarda. Adesso dobbiamo trovare il metodo come parlare, perché magari mettendo il dito giù, mettendolo al centro non fa, e invece mettendolo giù fa. Allora la svita già nella svita. Guarda che si sta muovendo il binario della svita lì. Allora praticamente se io lo premo da giù adesso sta andando. È il binario della svita già. Provo, adesso vediamo un pochettino se va bene così. Se va bene così il modulo da giù e basta. Vabbè, ma perché deve avere una cosa adattata che devi stare attento? Prova con una pinza, lo smonti, lo apri con una pinza, provi a stringere, ma fare ma poco di pressione sulla vita, magari i contatti si rettilineano e fa di nuovo inserzioni, sì. Per raffendere, no? Sì. Perché ho provato a farglielo dal centro e lo fa. No, prova la svita già. Sì, è proprio quello. Quando clicco, qua. Ora sta uscendo. Sì, stava uscendo, però già è quella roba che sto dicendo io. Non ce la sbagliare. C'ha carboncini, carbonella c'ha all'interno quella slitta lì. Ma non credo che sia carbonella, sì, credo che sia solo roba di binario che fa fare contatti tipo cilindretto, mi segui? Ehi. No, perché prima c'erano quelle... È presente la mina della matita, li spregavi quella e si riprendeva. Sì, ho presente, no, ma siccome non è quella, è proprio roba di contatto, è già roba di umidità, è roba di umidità. Prova a prendere a controllare la quella dritta. Adesso ne smonterò qualche duno, là se non ce l'ho lo smonto, ma ne dovrei avere di quelle a 6 piedine. Te lo sta sempre facendo. Lo fa, non so che lo fa, è un casino, chissà perché è nuovo. Perché usi poco già, perché usi poco. E vabbè, adesso vediamo, dai. se c'ho qualche interno di qualche altro microfono, rimetto l'interno dell'altro e via, e basta. E poi tu prima. Certo, certo. Perché già mi ci sarebbe stato qualche falso contatto, te l'avrebbe fatto anche quando non modulavi, mi segui. Sarebbe stato importante da solo, invece proprio quando schiacci e ti va questa cosa qua, quindi è roba di, diciamo, di contatti, di qualche salvatura fredda o qualcosa di ossidato. Sì, no, a quest'ora se fosse stato ossidato ci sarebbe messo a posto, capisco, tutta la roba che gli ho messo, spray, l'ho spruzzato l'aria prima, poi ho messo lo spray per contatti, ci ho messo anche, perché con lo spray non faceva, di solito risolvevo sempre mettendoli tubi di rai, non si fa, però c'è recimarino. Bisogna mettere roba che non fa, che non conduce, capito? Spray secchi che non conducono, con quelli, ma però già magari hai qualche cosa che ti ha mollato, qualche salvatura, che si muove appena appena, la salvatura quando avete tempo potrebbe anche diventare fredda, non fa bene il contatto e ti fa questo scherzo, mi sembra. Mi devo affittare, aspetta che lo tolgo e metto un altro. Gavi, perdona, ma al buio non si vede nulla. No, tranquillo, tranquillo, già sono qua io. Sono qua adesso, facendo roba. Ci ho messo troppo perché al buio praticamente è un casino trovare messa natura giù. Sì, sì, vabbè. Io me la devo prendere qua una bella, ce l'ho la, diciamo, la bajur bella. Devo trovare una lampadina e faccio una luce bella soffusa. Che non dà fastidio, mi segue. Devo andare sul rosso, sul blu o sul verde, luce di riposo. Ora ti mando la... E c'è un po' di sonno, Un pochino di sonno. Sonno c'è, cioè, stacca. Sì, un pochino sono molle, sono un po' molle. Io ce l'ho blu. Che vuoi fare? Vuoi chiudere, capito? No, aspetta, c'è un attimino la bambina, non capisco cosa mi dice, aspetta un attimino. Che mi si è rotto il passeggino e me lo stavo riparando. No, ho detto, non sono in forma come le altre volte, è un po' accasciato. È un po' battuto, si stacco, magari. È roba arretrata, mi segui. Ehi, si accumula qui alla fine. Uno grolla. Sì, e vabbè, magari è solo cosa dopo cena, aspetta, oggi mi hanno regalato questa ricotta, Antone, la ricotta fresca, assurda, buonissima. Ci credo, c'è roba di pastore, c'è un grido che è buona, sapore di rurati blu. Sì, infatti l'avevo lasciata stanotte una compagna e forse per quello che sono un po' accasciato, perché me l'ho mangiato un bel po', perché quando è buona mi piace impazzire. Chiedi di fare la pasta con la ricotta, se vuoi che è buona. Sì, la pasta con la ricotta ha fatto. No, avevo capito che l'avevi mangiata così. E anche così c'è buono, ma la pasta con la ricotta è favolosa, ti piena perché è molto, molto corposa e ti riempie molto, però è buona. Sì, infatti è per quello che sono un po' ingolfato, no, ecco, esatto, non sono stanco, sono ingolfato. Te ne mani a due gruppi, va, detto chiaramente, è la glicemia. Non lo so, sì, la glicemia per oggi va bene così. Infatti, una volta di tanto già si può fare, poi il resto Ramadan, come diceva il mio dottore diceva, una volta alla settimana va bene, poi già il resto dei giorni Ramadan. Sì, già, il Ramadan me lo facciamo un altro momento. Io quando devo mangiare mangio, no, vabbè, non a essere ingordi, però se c'è qualcosa che mi piace, tipo pasta ricotta, pasta con un buon pezzo, con dai, queste cose qua, io me la mangio e non mi interessa. Ma la posso fare a meno della pizza, posso fare a meno di tante cose, però a me il piatto di pasta e il pezzo del formaggio buono non lo devi togliere, perché altrimenti è meglio di uno vada in clausura, no? A me mi piace tutte le robe che fanno il pasto di salsiccia, formaggio, tutte queste cose qua mi piacciono bene a me. Però non le posso mangiare, se cerco sempre di evitare, non le compro per non trovarle in casa, perché se ci sono in casa mi rimangio, capì? È solo in gomma, dico la verità, queste cose mi piacciono troppo. Sì, sì, infatti, no, io per guarda preferisco più, adesso, un pezzo, un bel pezzo di formaggio che un cornetto alla crema, la verità è, a me i dolci poco me riguarda, per me i dolci li possono anche abolire, però non mi può fare formaggio e pasta perché divento un assassino. Io l'altro giorno ho fatto i tortellini, era da un mega come faccio, i tortellini con la pancetta fumicata e la panna, già che anche sono buoni, non me ne ricordavo più così buoni. Buoni insomma, aspetta, sono assurdi, buoni, buoni, buoni, allora i tortellini sono buoni, fatti anche funghi e gorgonzola, allungato tutto il sistema con la besciamella, oi, oi, oi. Roba di bomba, però. Però, caspita, è una cosa allucinante, tortellini, funghi, besciamella e gorgonzola. Un po' di pecorino grattugiato sopra, grattugiato un po' grosso, e sì, un signore. Se no non è buona la pasta alla contadina, fatta con i funghi trifolati. Isso, è assurda. Ma tu la pasta è tutta buona, tranne la matavrisa, perché a me non piace, proprio non piace. Io poi io mangio tutto, tranne la matavrisa e la trippa. Proprio una cosa, non è che poi l'ho assaggiata e non mi scende, mi segui? No, la trippa sì, la matavrisa non l'ho mai mangiata, non so manco che sapore abbia. Ci doveva essere una festa che dovevamo andare e poi cosa è successo? Non me lo ricordo, non siamo andati. Dovevamo andare a Ussi che la facevano lì la matavrisa. Però non l'ho mai mangiata, ti dico la verità. La trippa la mangio, la faccio con sughetto piccante, a me mi piace molto, ti dico la verità. La trippa sì. No, a me, per me quella roba, per me quella roba che deve essere abolita. No, non l'accetto. No, ma non che non l'accetto come. Perché se la vedo fatta, se la vedo, io me ne mangio le tre piatti, mi segui. Però l'aspetto mi piace, l'ho assaggiata e non mi scende, No, proprio non mi ti vale, proprio la fame, ma non mi ti vale. No, io accetto tutto tranne quelle cose. Vabbè, a me per dire non mi piacciono le cose salate, non le mangio. Eppure c'è gente che va a matto con le torte salate, io no, non le mangio. Mi piace più mangiarmi una pasta che la torta salata. Vabbè, questione di gusti, poi vabbè, io come la faccio io è buona, mi piace la chicchini di Daniello, queste cose qua rigidi mi piacciono molto, la curva. Sì, ma per quella roba non c'è problema, quello possiamo fare anche delle sfide, per me non è un problema, però no, quelle due cose no, non le accetta, il mio fisico non le accetta, assolutamente no. Le torte salate mi piacciono tantissimo, torta salata, broccoli, gorgonzola e noci, buonissimo. Invece non le mangio, non mi piace neanche a me. La roba salata non è che molta roba non mi piace. È questione di gusti, là. Io cerco più bocchi dolci. No, ma è dolci, non è che mi. Sì, se magari non lo so, esco e voglio fare colazione, mangio un cornetto, ma. Non esco con l'intenzione per andare a mangiarmi il cornetto, capito? Io potrei uscire con l'intenzione per andare a mangiarmi un panino prosciutto crudo alla fontina alle 8 del mattino, mi segui? Quello sì, quello volentieri, però il cornetto, anche perché dopo mezz'ora di nuovo ho fame, cioè ti sa tra 10 minuti, ma se saziarmi dovrei mangiarmene una decina, ma guarda, 10 no, ma 8 sì, 8 cornetto, là così potrò saziare, però mai, ma neanche brioche, anche quando ero bambino, mai, quello a me mi piaceva la passatura la mattina, roba bizzante, roba buona. Ma la trippa è pesante, non si fa la magra che è pesante, pesante. Però è buona, se è fatta bene è buona. Io gli faccio questo sughetto piccante, gli metto un po' di formaggio sopra, yuhi. Sì, ma io l'ho vista, allora, quando l'ho mangiata, quando ho trovato io a mangiarla, è stata fatta tipo fatta al forno, mi segue? È stata tipo fatta al forno, cioè era una cosa che ti invitava tantissimo, l'ho assaggiata e non mi è scesa, ma tipo non mi si è parata già. Ma io la faccio solo col sugo integrale, la faccio col sugo un po' piccantino, non esageratamente. E basta, tutto lì, e prende proprio il sapore buono. Solo che quella che vendono, la trippa, non è saporita come quella che pulisci. A me una volta i macellai non avevano voglia di pulirla, mi hanno detto già te la porti via, che tanto ce la buttiamo questa qua, te la porti via, e te la perché di vitesse. Io che sono detto a pulirla un casino, oh vai, la metti sotto l'acqua calda. Era quella già regata a casa, già ha fatto un fiaggo umano, mamma mia, ma cazzo che era buona, ecco non l'ho fatto. Mi posso immaginare, però non mi va, mangiamo altro oltre la trippa e niente. Avete il video che ti ho mandato? Il video che mi ha fatto quando stavo scendendo? Sì, positivo. Sì, li ho visti, vabbè, sì. Va veramente bene. Hai visto dove arrivavi qua? Hai capito la zona qual è? Scusa, già? Sì, ho capito, aspetta, abbasso. Stavo ascoltando roba qua, sì, ho capito la zona, no, però vedi il segnale, la radio che è chiarissima, che non hai problemi di niente. No, infatti, non si è abbassato sotto il 9, non si è abbassato, sì. Quindi se ti dicono, ma sta arrivando segnale 8, sta arrivando segnale 9, la radio è comprensibile, falli cantare, mi segui, non dare retta già, perché se io ti do la comparazione così, ti dico guarda che tu stai arrivando qua benissimo, vuol dire che è quello, qua con me qui non sgarri, quindi lascia perdere tutte le cose, dei baracchini, degli smitter, delle radio, di quello, di quell'altro, tu sei un signore, tu con quella radio lì puoi andare ovunque. Sì, è un'antenna che è buona anche, là. Antenna che rende bene, eh sì, rende l'antenna ben buona, ma è buona soprattutto la radio. Però già lasciala così, che guarda, è alla grande, lascia perdere le comparazioni, ti dico arrivi male, perché intanto non ne cavi bene, non ne togli piede, quindi è buona così, buona e ottima, è ottima. Vabbè, mi ha soddisfatto, ecco, sono rimasto contento. Ma scherzi, sì, fa un po' di corrodi, però è logico, anche più leggera, è un'antenna leggera, quindi dovrebbe accentuarlo un po' più delle altre. Però qualità prezzo e qualità dimensioni è un'ottima antenna. Sì, perché non è ingombrante, non si sbatte agli alberi, io sono passato in zona di campagna ed era pieno di alberi, lì con l'attimo 2001 avrei sentito bam, avrebbe preso tutto. Sì, certo. Ma che salsa di freddo c'è? Io dovevo un freddo da non si bruciare. In campagna c'è più umidità, ma anche io sono in zona periferica, quindi c'è più umidità nella zona di casa e già c'è freddo, io mi metto sempre la coperta quando freddo c'è, anche se il riscaldamento era acceso, poi a una certa ora lo spengo, quindi ti puoi immaginare. No, ha detto cosa, hanno detto parlato di fuori, cioè fuori è assurdo, fuori c'è un'umidità assurda. Sì, quello sì, anche la mattina proprio tutti i vetri bagnati, tutti opachi, c'è 3 ore pure. Poi condensa, ne condensa quella, però dai. No, no, il coso è fuori, ma là devo uscire dalla mangiare i cani, devo tentarli perché fa una gara chi mangia prima, poi uno si vuole mangiare roba dell'altro, quindi devo tentarli. Non hanno imparato a mangiare i ciotole separate? Sì, mangiano i ciotole separate, però già sono... Dai, fanno, uno vuole assaggiare la roba dell'altro, capito? Ma non si azzuffano, è solo uno, poi ne vuole assaggiare la roba dell'altro, dico, cioè, mi giova e giova, l'ha compreso. Invece mio sta mangiando poco, perché se te le cade in calore non mangia. Ha lasciato un gar, ripassa, tutto gar. Sì, a te l'hai apprezzato, Ehi, se ti si attacca la gamba, non ti dico qua. Lo vedi. E lui adesso è preso e non mangia, anche per 15 giorni stanno così, Non me ne frega niente, Perché gli ho messo carne che la tirava, carne di cavallo, che lo attira un bel, quando vai carne di cavallo si mangia tutto, non lascia manco la ciotola, la pulisce tutta. E invece oggi proprio né a pranzo né a cena, l'ha appena gustata a cena, e ho detto vabbè la roba di pranzo te la lascia a cena, non l'hai mangiata a pranzo, non ti darà pure a gara, una fettina di cavallo. Eh beh, no, i miei già, per quello già non c'è pericolo. Lui di cosa non c'è pericolo, si mangia il burro puro a me, ma non perché hanno fame, perché sono così, cari di campagna non lo sai mai, perché tra l'altro giorno facendo, l'altro giorno in giro, tra lì prendi, intendi, quindi consuma molta energia. E poi adesso per un periodo le ho tolto le crocchette perché stavano, si stavano un po' viziando, non stavano ascoltando più, stavano diventando un po' sordi a comando, quindi le ho tolto le crocchette e stanno mangiando quando glielo do io, così adesso iniziano, cioè si ricordano chi è il capobranco, perché avevano sempre le crocchette, mangiavano quando volevano e allora erano un po' cacabuzù, invece no, adesso un po' le ho tolte, così glielo do io, mangio prima io, poi mangiano loro, così mi viene un po' buco. Dai, sono pure a vedere sempre a disposizione le crocchette, perché sono dove li metto da mangiare separato, e c'è l'acqua, le crocchette vicino, c'era sempre a disposizione, ma non è troppo, capito? Non le posso lasciare anche 3 mesi, non è troppo. Se non c'è la carne e la pasta insieme, non tocca crocchette. E invece loro prendono e vanno, ogni tanto prendono e vanno, fanno lo spuntinetto, mi segui. Scusa, e quando li chiamavo, li mettevo alla prova per fare qualcosa, non mi ascoltavano perché erano sazi. Quindi mi hanno tolto le crocchette, adesso sono un po' più attenti al comando e al richiamo. E purtroppo con i cani così, devo stare un po' attento anche a queste cose. Certo. Non è fatto così, ma quest'anno particolarmente non hanno mai fatto così a urlare sempre. Adesso dice deve essere stanco, si è addormentata vicino a me qua a Calduccio, e non sta urlando, ma ieri notte io non si poteva, me ne sono dovuto andare a letto, non facevo manco guardare il televisore perché stavo urlando, mi stava facendo venire nervoso. Poverino, già purtroppo non è che colpa sua, purtroppo non è neanche colpa sua, io anche mi stavo dormendo dentro la notte, perché c'è freddo fuori, quindi li faccio dormire dentro, è stata roba di valore fuori, non è un quid, non c'è problema. Tutto sotto controllo, cioè le telecamere, quindi non scappi. Quindi li sto facendo, li lascio dentro un po', e poi verso le 5, le 6, quando mi alzo, li libero e stanno fuori. E stanno fuori. E va bene, va bene. Poi questi giorni stava piovendo, sempre a poverire, ma c'hanno la cuccia fuori, c'hanno la casetta. Certo, ognuno c'ha la sua cuccia già. Ognuno c'ha la sua cuccia col diciamo con la tettoia fuori, con. Non sono così, sono tenuti uguali, sono cani tenuti bene. Allora, ognuno c'ha la sua cuccia, ognuno c'ha la sua ciotola, ognuno c'ha la sua ciotola dell'acqua, sia in cuccia che fuori dalla cuccia. E stanno tutto il giorno in piccoli pendi, mangiando, perché il cucino è una cosa, la salsiccia è un pezzo. E poi la notte gli metto un piumone in sala e li lascio dentro e rimangono tranquilli, bravi, poverini. Sì, ma anche a Caiso, quando non è calore, bravissimo. C'è una soprammobile a Caiso, c'è sempre drummiglio. Già è abbastanza pigro, Sì, me lo immagino già, poi magari l'educazione che gli hai impartito tu è anche un'educazione di calma e pace, quindi non è neanche un cane aggressivo, è rompiscatole. Ma guarda, io ti posso dire una cosa, che quelli miei sono vivaci quando sono fuori, perché stanno anche iniziando a fare comunella, a fare branco, quando baci uno baci burrasco, quindi... Però tutto sommato sono dei cani bravi, non sono di quei cani fastidiosi, sono dei cani bravi anche quelli miei. Però sono cani che sono abituati alla campagna, sono abituati a essere proprio, cioè, padroni del terreno, e sono cani che fanno il suo lavoro. Sono cani che fanno il suo lavoro e poi ognuno deve rispondere alle operazioni, mi segui, qua è un po' così. Vabbè, sono lì per quello, per difendere il territorio, è normale che il cane faccia il suo lavoro lì, sarebbe brutto se lo facesse, se lo abbaiasse quando viene gente e cose, ma comunque in ogni caso, cambia, anche se tiene dentro casa, se sentono gente, c'hanno un udito i cani allucinante, quindi abbaiano lo stesso, non ti preoccupare, pure se non vai nulla da fura, se entra niente già se ti avvisa. Ma scherzi, questi qua a me mi sentono arrivando già da quando sono al rifornitore. E poi se dal rifornitore a casa c'è un chilometro, loro dicono che si mettono già nel cancello. E poi c'è una cosa, quando esco da casa se ne va al cancello e rimangono al cancello tutti e due, e aspettano. Quindi non, proprio per quello non c'è problema. E in campagna ci vogliono già per tante cose, anche per animali che arrivano da fuori, per volpi, perché io ho anche dei gatti, e quindi in campagna ci vuole il cane. Ce ne vuole uno e anche due, però due sono già impegnativi, perché è un problema. Ma vabbè, finché si può si tengono. Vabbè. Vabbè, due, quello che dà uno è all'altro. Poi in campagna io mi ricordo, c'avevo questo amico che avevo regalato un pastore belga, perché c'era quello che abitava di fronte a casa, l'avevano licenziato al lavoro, mi ha detto già non lo posso più tenere, non è che conosci qualcuno bravo che lo tiene, questo e quell'altro, e aspetta, magari poi trovi qualche altro lavoro, no, già non ce la faccio più a tenerlo, non voglio far morire di fame il cane. Vabbè, l'ho preso e l'ho regalato a un amico mio, questo cane, ce l'ha portato in campagna. E loro mettono le reti per le olive, c'hanno 7 ettari di olivetto, mettono le reti, i cacciatori cosa fanno? Quando sparano l'uccello, se per dire è ferito e cade dentro la campagna, camminano sulle reti e schiacciano tutte le olive. E una volta la mamma di Antonio, di questo amico mio, gli ha detto cosa? Gli ha detto, lei sta rovinando il lavoro nostro di tutto l'anno, non si rende conto che per prendere quell'uccellino sta schiacciando tutte le olive. E lui si è messo a dire parolacce, questo e quell'altro, gli ha puntato il fucile. E io gli ho detto, ma l'avvio si è fatto, quel pastore belga gli è saltato addosso, se non lo ferma, se lo mangia. Ma stai scherzando, vedi di entrare qua di venire qua a schiacciare la cosa, ma io i cani li leggo, io non è che metto i cani che faccio male, i cani li leggo, se arrivi con me guardo, fidati. A proposito di cani, ti ricordo che ho raccontato che alla mia compagna, quello lì, aveva detto di allontanarsi, che c'era il cane su libero, questo e quell'altro. L'altro giorno sono salito io con il cane, proprio il giorno che te lo stavo raccontando, sono salito io col cane, ma ero meduto. E si è messo la voce da lontano, no, no, non salga qua, che c'è il cane libero. E io ho fatto, Gabi, tu hai detto qualcosa a me, anche tanto ho fatto finta io. Ho continuato ad andare dove stavo andando, quando mi ha detto di nuovo roba, e gli ho detto, scusi, ma sta dicendo a me? E lui, perché poi c'è tu, farò questo e quell'altro. Allora, prima cosa, lì il cane è slegato, non lo può tenere. Ma non c'era nessuno, sì, ma lei deve calcolare che qua da un momento all'altro può arrivare gente, e poi non lo può tenere, in ogni caso per legge non lo può tenere il cane, perché il cane per seguirlo, per gestirlo bisogna avere il guinzaglio. Poi secondo luogo gli ho detto, questa qui la piazza la sua, e poi di chi è per dirmi queste cose? Chi è? Mi dica chi è? Abbiamo ripetuto di andare. Beh, cosa voglio va? Eh beh, no, si credono che sono i padroni del mondo. Si credono i padroni del mondo. E una volta, guarda, in Pinetta, io andavo in Pinetta a portare il cane, e c'erano questi cipriti che mi hanno detto di prendere e ritirare il cane legato, perché loro dovevano correre in bicicletta, cioè i ciclisti, mountain bike facevano. E tu sì, vabbè, però calmati, che non c'è bisogno, io il cane in Pinetta lo porto, lo tengo sciolto, l'importante è che non dia fastidio a nessuno, e tu in bicicletta devi andare piano anche. E noi in bicicletta non le voglio, perché ho permesso alla padrona, e va bene, adesso fin visto che l'hai messa così, no? Finché l'hai visto che l'hai messa così, e prendi, mi porti dalla padrona e mi fai vedere il permesso che hai tu per correre in bicicletta. Fammelo vedere. Ma io sì, ma tu adesso chiami la padrona, adesso tu chiami la padrona dalla Pinetta, mi fai vedere il permesso che c'è per correre in Pinetta. Se il cavallo muto. Ma la Pinetta perché? Quella c'ha padroni, non è di tutti la Pinetta. No, la Pinetta c'ha padroni già. La Pinetta non è il comune, la Pinetta è privata. E se vogliono la chiudono e non entri più. Però non è che ti ha dato permesso di correre, ti ha dato permesso di prendere, girare e fare allenamento, ma non di correre. E poi uno si deve adeguare, anche cioè tu sai che lì ci sono dei cani che girano e vai piano, non è che tu devi investire il cane perché devi correre in bicicletta, mi segui, la Pinetta è privata, non lo sapevi? No, è nuova questa cosa qua, io pensavo che fosse diciamo una proprietà di tanti, che fosse una cosa comune. No, no, è privata già, è privata, e molta gente sa così, però la Pinetta è privata. Ma tutte le Pinette che ci sono la zona di Platamona, che i Pettini, eccetera. No, ti parlo dalla chiesetta, dalla torretta, scusa, dalla torretta fino a Porto Torres, fino alla chiesetta di Bella Lontano, quella è privata. Quella che c'entra quel viottolo stretto stretto. Esatto, dove si va a correre? Fino a, alla rotonda, è privata, fino alla torretta è privata. Ah, capito, no, lo sapevo, pensavo che fosse roba di che potesse entrare chiunque, là. Ah, adesso è bello andare a fare a spada in fidenza, per quella zona lì ce ne so. Sì. Ma è privata sia dalla parte, diciamo, dalla destra sia dalla sinistra, dalla parte della torretta. È privata a tutte e due le parti, infatti loro, i padroni chiamano la foresta per tagliare l'erba e per donarla. Ma per tagliare la legna e donarla. E niente, se la chiedi te la danno la legna. Sì, ho visto tante volte, vabbè, cosa ne fai con la legna? Ci la vuole barrusiva il viaggio di corso, di risi, la buona. Sì, però diciamo che per la tuffa legna potrebbe anche andare bene. Per la tuffa legna potrebbe anche andare bene, trasporto un pochino, ma se tu vuoi qualcuno che è in difficoltà economica e si vuole scaldare, si fa la pulizia dalla tuffa una volta al mese, però si scalda, mi si dice di più non scalda la legna perché fa la fiamma. E te la regalano, si dà a chi te la regalano? Con gli alberi che sono a terra, che sono caduti, con gli alberi che sono caduti da luna calante, che cadono naturalmente, quindi sono alberi caduti da, diciamo, da fasi lunari, quindi seccano subito, sono buoni per bruciare e quindi te li regalano. Sì, poi la legna di pino prende subito fuoco perché c'è la resina. Sì, per scaldarti magari può anche andare bene, capito? La metti nel camino, cosa? Però per cucinare non va, perché ti lascia la piazza della resina. Ti vedi la gara con un piatto della resina. Vabbè, non è che è l'olivo, per cucinare e anche per scaldarsi. Sì, olivo, quercia, io guarda, per cucinare, vabbè, uso carbone, però se devo cucinare con la legna, uso la legna di olivo, di mandorlo, perché io avevo qualche albero di mandorlo anche, che l'ho tagliato, oppure si usa della quercia o si usa diciamo della vughessa, dai, legna così che fa, che profuma, che manda, che emana degli odori. No, il pino, un vino la buba di se mangiendo già, la carne te la fa tipo un gozzo, fa caridai, non abbia buio il resina. Sì, non te lo dico perché una volta eravamo in campeggio l'abbiamo usata, la legna di pino, sai, in campeggio ci trovi la pimenta con le rami secchi che ci sono in terra, l'abbiamo preso, ma caridai, dai. Mentre per la rufina del pino sono buone le pigne, capito? Le pigne vanno bene per arrostire. Sì, quelle lì le abbiamo usate, a Platamona siamo andati a fare le pigne e le abbiamo usate per arrostire, vanno bene, sì. Mentre il tronco, diciamo, il ramo, il tronco, la quercia, perché poi se togli, diciamo, la corteccia, non la quercia, scusa, la corteccia del pezzo del ramo potrebbe, mi attocca, mi segue, non ne ha tanta di resina, però se togli la corteccia è un po' un problema, devi fare a pulirlo, a farlo, quindi va bene per la stufa, farlo fare a tronchetti da 20 cm e usi per la tuffa a legna e scalda la legna di pino, alla fine è pianella. Sì, scaldare scalda, anche perché la colla si incendia subito, accende subito. E tiene anche fiamma una volta che è accesa, tiene anche la fiamma. L'olivato invece devi un po' curarlo, se non è bello secco già l'olivato devi un po' curarlo come fuoco, perché si accende ma va sempre a spegnersi, a fare anche un po' di puzza, a fare, dai, deve essere bella secca la legna dell'olivo per scaldare. Beh, se il verde non accende bene, è normale. E quella lì, vabbè, a casa ci usavamo quella, ce la portavano, ce la scaricavano giù, poi c'era l'ultimo piano con le macine, se mi devo ricordare, guarda, la fatica che facevamo. Venivano scaricando, scaricavo, lo so bacio a piede e noi piano piano con una bacinella grande la portavamo fino all'ultimo piano, perché avevamo una stufa in legno di quelle nicchie, ce l'ha presente, di quelle con uno. Sì, sì. Ma guarda che quelle stufe lì andranno dopo di moda, se continua il prezzo del gas così. Ce l'avevo anche io, quando sono arrivato qua ce l'avevo anche io la stufa in legno. Sono andato a tempo a prenderla, una nordica, era una stufetta nordica, e dico la verità, le scaldava, faceva, perché in genere un po' di puzza la fanno, faceva un po' di puzza appena la accendevi, poi tirava bene, e usavo quella, però poi ho deciso di prendere la stufa pellet, e quella facevo ancora e non l'ho mai data, ce l'ho in garage, ce l'ho in magazzino dall'altra parte, non l'ho mai data e la tengo, non si sa mai. E la stufa legna sì, ci vuole, è bella, e poi sembra così, ma fa atmosfera. Io a Natale ho acceso il caminetto in quei giorni, ti rallegra, ti manda pace all'anima, capito? È bello, poi per il Natale arrostisci, fai, ti dà pace all'anima al caminetto, è bello. Sì, dà un senso di pace, è bello. Io mi ricordo che in campagna di questa Vicombia il nonno ci raccontava le storie attorno al caminetto in tempo di guerra, quello che mangiava, che faceva, e lui dice che tutti stavano combattendo, lui sotto il ponte con un'infermiera facendo, dice loro, se muoio così almeno muoio tranquillo. Ha fatto bene, mi dimuccio per 120 anni, ha fatto bene, anche lui stava, faceva la guerra, era in battaglia. Va bene, no, è vero, porta pace all'anima al caminetto, è vero, sì, però già non lo puoi tenere neanche, sai, perché dicono, ma tutti quanti siamo cresciuti col caminetto, vabbè, però oggi ci sono esigenze diverse, devi prendere, devi adeguarti. Perché a me mi hanno detto, perché tu sei cresciuto con la tua pellet? No, non sono cresciuto con la tua pellet, sono cresciuto con la tua gas. Mia madre ci coricava la notte, ci metteva la cuffietta nel letto, perché c'era freddo a casa, ci metteva la cuffietta, e non ho detto, perché l'ho fatto io, deve farlo anche mia figlia. Quindi io, se permetti, a mia figlia devo dargli tutti i comfort possibili, ma non perché i miei genitori non ce li davano, perché la casa era quella che era, e diciamo non c'era un riscaldamento, non c'erano termosifoni, c'era questa stufa a gas, e la notte ti coricava, ti metteva la cuffietta e ti dovevi accontentare così. Ci si va fumo la bocca e a casa la notte quando respiravi, quindi c'era un po' di freddo. Ma vabbè, ma fatta anche le babbucce di là, tutta la cuccia, le babbucce, sia a me che a mio padre, faceva l'uncinetto, no? E si divertiva a fare le babbucce, sa quante erano calde, si scaldava di più. Beh, certo, però adesso ci sono esigenze diverse, ma va bene così, ma lì tanto quest'anno il pellet era caro, era coso, eppure grazie a Dio ci siamo scaldati anche quest'anno, facendo sacrifici, e ci siamo scaldati anche quest'anno. Adesso via a luglio, se ne trovo, me ne prendo una bella padana, se la trovo a poco prezzo, e me la tengo per l'inverno prossimo, e niente. Ma con i sacrifici si fa tutto, piano piano, e facciamo tutto. Piano piano, sì. Solo che rompe le scarpe, nel capo, che abbiamo aumentato così tanto, era 4,90 il pelle, se me lo ricordo bene, quando lavoravo io. 4,90, ma siamo 5 euro, tutto un anno. E da qui è andato a 1,0, ma stiamo scherzando, il doppio è aumentato. E c'era un signore a portatore che c'era il garage, non mi faceva manco lavorare tanto. Mi prendevo una pedana, andavo in garage, mettevo la retromarcia, glielo passavo e lui la citava. Cioè, amico, questo qui mi dura tutta la stagione. facciamo la prossima, così vi facciamo fare una volta solo il viaggio. Sì, sì, ma anche io con una pedana. Addirittura già ho trovato giusto il settaggio alla stufa, guarda, io con a me un sacco di pellet mi sta facendo due giorni e mezzo, un sacco di pellet. E guarda, ti posso dire una cosa, che adesso io sono in pigiama, tranquillo, sono in cameretta e si fa bene. Poi se proprio freddo attacco la pompa di calore, ho una 12.000 rivolta verso le camere e ti basta tutto un macchino, domani me le camere ti corto tutta la notte senza coperte. Perché mi sono adeguato a questa cosa del pellet, ho fatto due conti, ho detto se devo spendere 11 euro a sacco ci vogliono 3 sacchi la settimana, mi faccio il conto, pago 500 euro a pompa, i conti sono fatti e già, dice consumi luce, non è così perché una volta che vai in modula anche lì non consuma niente. Quindi mi ho fatto poi di conti, me l'ho comprata, mi ho preso una bella Viking da 12.000, me l'ho fatta installare e ce l'ho a disposizione già. Per un conveniente c'è anche la pompa di calore, poi c'ho il caminetto, poi in garage ho messo la zucca a gas, beh, mi muovi un po' di cose, ce l'abbiamo. Siamo al sicuro, però la zucca a pellet è più comoda perché metti in pellet, vai e sei tranquillo. Niente, ne avevo un po' di sacrificio già, purtroppo, siamo nati poveri e moriremo poveri, ancora più poveri. Grazie a Dio già ce l'hai tutte le comodità, cosa pretendi? C'hai tre tipi di riscaldamento, cosa vuoi di più? O uno o l'altro, di freddo non muri, dai. Ma quella pompa di calore fa anche la condizionatore? Sì, fa estate freddo e d'inverno fa caldo. E già, mi dire, sacrifici ci sono dentro di dietro ogni cosa, non è, a me la verità, guarda, non mi ha mai regalato niente, nessuno, e tutto quello che mi hanno regalato l'ho sempre ripagato il doppio, perché se mi regalano una cosa io ti regalo il doppio, quindi, ma non per cose, per inferiorità, per superiorità, è perché non voglio avere niente a che fare dei debiti con nessuno, quindi è così, non... amicizia sì, però la conoscenza sto con le due, ma stiamo sempre con i piedi di piombo. Sì, l'ho presa da Brico, ma ne l'ho trovata in offerta da Viking, era 4,99 12 kW. L'ho fatto installare ed è tranquilla, grazie a Dio, è tranquilla. Mia madre diceva, se vuoi che l'amicizia si mantenga, una mano che va e l'altra che venga. Esatto, tutto così. Però molte persone non la pensano in questo modo, è solo a prendere e mai a essere cortesi, perché non si deve pretendere nulla, però a me hanno sempre insegnato che se ti danno un lavamano pieno di lumache, restituiscilo o con le stesse lumache o altrimenti metti anche un pezzo di formaggio per essere anche ben gradito. Quindi non si restituisce mai la roba senza essere ricambiata, ma non per superiorità, per cose, perché è sempre a me, per esempio, mi nasce dal cuore, mi nasce dall'anima ricambiare con la cosa buona, perché se tu mi regali un qualcosa di buono, no? che è ben gradito, che gradisce la mia famiglia, che tu hai fatto contenta la mia famiglia regalando questa cosa, io a me mi fa piacere che tu ti trovi bene con me, quindi anche ti regalo un qualcosa di buono che può far piacere a te, la tua famiglia mi segue, è tutta una questione di gratitudine e di rispetto reciproco. L'ho fatto anch'io così, mi sento in debito se non lo faccio. Sì, esatto, purtroppo per il debito è per una... ma per il rispetto reciproco che ha per quella persona, mi segui? Io la penso così, invece ci sono tante persone che prende, magari fai qualcosina, grazie per il momento, a risentirci le cose, ma vabbè, come hanno a che fare per poco, perché io non voglio niente in cambio, però si accorgi quando una persona è un po', diciamo, è un po' così, un po' scroccona, ecco la parola giusta, è scroccona. Quindi andiamo, teniamo le amicizie giuste, ecco, la conoscenza è giusta e andiamo avanti. Amici, se bisogna anche saper centellinare bene, perché bisogna scegliere gli amici, perché amici veri non ce ne sono tanti. Io l'amicizia intendo quella con la A maiuscola, io non si fa già pensare uno per l'altro, e io di questi amici qui ne ho avuto solo due, che per me avrebbero fatto di tutto, così sono io per loro. Però diciamo, con l'andare del tempo un po' ci siamo persi di vista, ogni tanto ci vediamo. Adesso, per dire, con un amico mio che ero da tanto che non mi vedevo, ma erano anni, ho trovato la moglie in banca l'altro giorno, mi hanno passato al telefono e gli ho detto buonasera, e da con chi parlo? E non mi avevo riconosciuto. E ho detto, ah, tu, secondo me non mi conosci, sono Gianni. Oh, Gianni mio, già è un giorno che non ci vediamo, io ti voglio rivedere. E va bene, ci troviamo. Siamo stati una sera, tutta la sera insieme, raccontando, facendo, siamo andati in campagna sua, si è fatto una bella casa, abbiamo fatto vedere la casa e tutto quanto. E siamo stati bene, siamo rimasti sempre amici, però, capito? Anche se siamo stati tanto tempo senza vedere. Sì, infatti, è così, è così. Io, guardi, ti posso dire una cosa, io l'amico mio è, sono io, e buh. Io quando guardo lo specchio, dico buongiorno amico, basta, no, non lo voglio sapere. Posso avere conoscenti di prima categoria, conoscenti di seconda categoria, di terza, di quarta, di quinta, tutto quello che vuoi. Però io sono fatto così, io amicizie, no. Non ne ho e non ne voglio avere amicizie, diciamo, intime, personali, amicizie, diciamo, intime, amici, io sono sempre stato contrario, ho sempre avuto conoscenti di prima categoria e seconda. L'unico amico che io ho avuto, vero tutto, è diventato mio padrino di cresima, perché mi sono cresima ancora grande. Quindi, però è una cosa a parte, fa parte, diciamo che fa parte della mia famiglia, un amico, per una volta io faccio quella scelta, fa parte della mia famiglia. Però io già non ne voglio sapere di cose, di prendere, io ho conoscenti di prima, di buone conoscenze di seconda, conoscenze e poi basta, finito. A me chi mi dice, ciao amico mio, no, tu non sei amico mio, io amici non ne ho. Davide, io per il carattere che ho sempre dato il cuore alle persone e ho avuto un bel di tutti i due, un bel di pugnalate alle spalle e tutto quanto, quindi preferisco starmene da solo, meglio soli che mal accompagnati, si dice. Brutto, io stesso. Ora io sono qua, io sono in campagna, sono a casa, me ne sono andato a vivere in campagna già da un po' di tempo, tu lo sai. Soprattutto per non avere rompimenti di scatole di nessuno. Quando il cancello è chiuso, dice ma non ci sei a casa, sì ci sono ma non voglio rompimenti di scatole, quindi a me, con me tu devi prendere, mi chiami, già per già, tu a casa già uno. A me quando sono invadenti che vogliono venire a casa, già quello sta lontano, proprio dal cancello rimane lontano, capito? Quindi l'invadenza a me non mi piace. Me ne sono andato a vivere in campagna per quello, per non avere problemi di invasione di gente, tutte queste cose qua. Ma spuntini così, io l'altra notte per esempio mi sono trovato con un vecchio amico, abbiamo preso la famiglia e ci siamo andati a mangiarci la pizza fuori. Quello lì è un amico d'infanzia che la pensa come me, che è una persona che su e su, è tranquillo, salata con la famiglia, ci siamo divertiti, abbiamo fatto, abbiamo bevuto il nostro vino, mangiato il nostro piatto di pasta, la nostra cosa, e ci vediamo alle Prussia, ognuno a casa sua felice e contenti, lui può contare su di me, posso contare su di lui, a me va bene così, però niente invadenza, niente cose, niente gente che viene a casa così, dall'oggi al domani, perché con me non attaccano queste cose. Un anno ho preso la casa a Flaccavone, perché ho detto così almeno i bambini se ne stanno al mare, si fanno un po' di mare, e ho preso un mese la casa a Flaccavone, quindi al terzo pitti. E da quando ho preso la casa, prima non veniva nessuno, quando ho preso la casa allora di cena venivano sempre gli amici, ma mangiare, capito? Ah, ho capito l'antifona, pancetta e buco, non piglia altro, perché non devo stare a spendere i soldi così per gli altri. Cazzo, sempre gente, tutta l'essere gente, a me la compagnia mi fa piacere, però, cavolo, a dire una volta venite a casa a mangiare, sempre a mangiare e mangiare. Infatti io, scusami, io siccome non voglio prendere, non voglio essere coso con nessuno, prendo e cancello qua a casa, è chiuso, guarda, sia i miei suoci come mia madre hanno tantissimo rispetto di loro, e quando devono venire ci chiamano, quindi non ci mettiamo problemi, non ci mettiamo problemi, la mia compagna la pensa come me, la storia è quella, ognuno deve stare a casa sua tranquillo, sereno, perché io anche quando vado a casa di mia madre o quando vado a casa di mia suocera chiedo permesso per entrare in bagno, mi segue. Pensa quanto può essere la mia invadenza a casa di mia madre o a casa di mia suocera. Mia suocera mi dice, guarda, non c'è bisogno, lo chiedi, vai. No, io glielo chiedo perché non sono a casa mia, io non mi azzardo a prendere un mobile, mi segue, non mi azzardo a prendere una forchetta dal mobile, quindi no, pensa come posso pensarla io, come la posso mettere io in queste situazioni. Faccio, no, c'è gente valente, io non sono a casa di una suocera, sono a casa di lei, faccio quello che voglio, non è così, e non voglio che sia fatto a casa mia, questo è un punto proprio strategico per andare d'accordo con me, perché se mi dica per fare il valente, non... io ti dico niente, non è che sono niente a bisticciare, poi lo ti taglio i viveri, sparisco, e dici ma perché non mi va, e magari un motivo, non c'è il motivo. Oppure quelli che vengono con i bambini vanno nelle stanze, loro entrano a perseguitare i bambini, come se fosse a casa sua. Esatto, ma tu lo sai, ma tu ne sai molto di quello che c'ho io in camera da letto, di quello che c'ho io in soggiorno, di quello... Ma come ti permetti? Eppure quelli che te ne vengono, amici improvvisati, così io mi ti ho portato quello, quell'altro. Fa una cosa, a me non me ne portare di niente, no? A me non mi portare niente, noi siamo tranquilli e sereni e tranquilli, se mi ricordo qualcosa ci troviamo pure e me la dai, non venire a casa, non mi portare nulla, perché non voglio niente, capitato, ma ti ho portato quello, ti ho portato quell'altro, vabbè, fa una cosa, e la poi chiamami quando devi darmi la roba, non ci venire, perché anche se sei fuori dal cancello non ci venire, capito? Vabbè, perché poi non sai mai cosa stai facendo, capito? Ti possono trovare in un momento che tu stai facendo delle cose che a loro non interessano, cosa rompono le scatole, sì è vero, se sono persone che sono molto invaditi, io ho sempre chiamato prima se ti va, se ci mangiamo una pizza insieme, o venite voi a casa o veniamo noi, e mi hanno sempre detto di sì, la verità a me, mi hanno sempre detto di sì, io di sì ho detto a loro, però devi essere amico di quelli che praticamente una volta sei a casa sua, una volta sei, non di chi si vede sempre a casa tua. Il primo periodo che ci siamo sposati, cavolo, erano sempre a casa, sì la compagnia fa piacere fino a un certo punto, però poi cominciano a interferire, a dire, a fare, ma perché questo è così, ma perché non fate così, ma perché qua, ma perché là, e allora mi cominciano già a rompere le scatole, perché io decido con un gabbo mio e non mi piace che già siano interferire e così via. Esatto, quindi lo vedete, non sbaglio, ognuno a casa sua. È la cosa, guarda, e rimaniamo amici 100 anni, 100 anni con me, rimane amico di una vita con me, se uno se ne fa per le sue, io non tanto io me ne rimango per le mie, non voglio niente a nessuno, non chiedo niente a nessuno, quello che chiedo e che si vende lo pago, quindi non ho problemi, perché io quello che uno mi vende, se posso lo compro, se non lo posso non lo compro, io prendo e rimango tranquillo con tutti, tranquillo e sereno,